Yo, clicca, connessione in corso. Non hai bisogno di preparare un discorso. Non hai bisogno di leggere libri o studiare. Qualcuno per te ha preparato una frase da postare per chiarire meglio il concetto. Qualche faccina con uno sfondo d'effetto. Avere successo, piacere la tua sessione. Comunichi con il link la tua opinione. Non Salcini, Dalai Lama, Fallaci, Bukowski, Margherita Hack, Mussolini, Che Guevara, Dostoevsky, Bob Marley, Tolstoy e Tupac. Non importa se non sai manco chi cazzo sono stati. L'importante è che ci siano i like assicurati. Non riesci a dire con parole tue quello che pensi. L'importante è avere tanti consensi. Così qualcuno ha preparato quello che devi pensare. Così qualcuno avrà un soldato sempre pronto da schierare. Una pedina pronta a credere ad ogni bufala clamorosa. Con l'illusione di essere popolare e famosa. Pronta a condividere ogni catena di Sant'Antonio e a commentare ogni foto di ogni matrimonio, a condividere oroscopi ed eventi, a dire che bisogna essere sempre sorridenti per essere vincenti. Intanto dici che nessuno ti deve giudicare, ma tu prendi per il culo che è diverso e non si vuole adattare. Hai l'illusione di avere tanti amici che ti sanno apprezzare, ma se ti incontrano per strada ti vorrebbero ammazzare. Ma tu copia, incolla, non è più indispensabile pensare. Copia, incolla, se vuoi essere anche tu popolare. Copia, incolla, tutto si basa sull'apparenza. Copia, incolla, anche senza un minimo di coerenza. Le nuove tecnologie ci stanno dando la libertà di non dover scegliere. Non è fantastico? Prima linea a denunciare la cassa e la corruzione, ma il lavoro l'hai trovato con una raccomandazione. Dici che bisognerebbe fare la rivoluzione, ma non oggi perché c'è la partita di pallone. Certe immagini proprio non le puoi guardare, fingi di non sapere perché è troppo difficile cambiare. Fingi di non vedere, ti senti assolto, supporti la violenza ma non ti senti coinvolto. Sei animalista ma alla carne non puoi rinunciare. A Pasqua non mangi l'agnello ma mangi il maiale. Giochi e non vedi le sbarre in cui sei rinchiuso. Ti basta qualche notifica per essere illuso. Non ti accorgi che sei sempre guidato, controllato, schedato, telecomandato. E tu credi di seguire un sogno, ma è solo marketing. Ti devono vendere ciò di cui non hai bisogno. E poi immagini che è depresso perché tu sei solare. Le persone negative ti succhiano l'energia, sono da eliminare. Sei fan di Papa Francesco e poi condividi i peggiori post razzisti. Difendi i tuoi compaesani anche se sono camorristi. Strumentalizzi ogni tragedia, ogni dolore. Condividi anche tu se hai un cuore. Posti un selfie in cui ti ubriachi in un club e subito dopo la foto che ha commosso il web. Perché ormai oggi non c'è tempo per informarsi. Ciò che conta è adattarsi. D'altra parte con te non si compete. Mi rispondi con tante frasi fatte che ho trovato in rete. Copia, incolla, è il trionfo della banalità. Copia, incolla, ha vinto la superficialità. Copia, incolla, Santini, frasi zen, una canzone dei Modà. Copia, incolla, per integrarti in questa società. Copia, incolla, la tua petizione tanto non vale niente. Copia, incolla, deve pensare bene di te tutta la gente. Copia, incolla, la vita vera però è un po' deludente. Copia, incolla, tanto anche tu come me rimani un perdente. Ah. Le nuove tecnologie ci stanno dando la libertà di non dover scegliere. Non è fantastico?